دسه في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي يا اخي لن تختفي يا اخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا اخي صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حريه مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتسوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رساله حره ثوره تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحره اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي ظلمه الا بوحده الشعب الا برجوع الارض ارجو تناديكم سمعن خدر المعادي بشد على الايادي الايادي بساعد محم الموت مطابق بالصوت رافض السكوت وصاحب عين الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل قدر بلحظة خرجت الدموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض E 19:25 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default, siamo in onda con Radio Sofia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata sulla Palestina occupata. Ricordiamo subito i contatti della radio www.radiodefault.it dove trovate il playerino per ascoltarci, poi ci sono i nostri contatti Skype e Facebook, radio.default e Radio Default, dove potete scriverci per intervenire in diretta, mandare, fare domande, inviare insulti, oppure potete venirci ad ascoltare live direttamente dagli studios di Genzano di Roma. Siamo a via Guidobaldi 56, potete venire anche là, partecipare in diretta, bervi una birra, in modo tale anche da sostenere questa radio che non campa d'aria ma campa delle sottoscrizioni di tutte e tutti noi. Siamo qua oggi collegamento con due compagni, Bulos e Mamun, che ci parleranno del piano Prawer. Difatti abbiamo letto dalle agenzie che hanno battuto poco fa la notizia di un ritiro di questo piano che prevedeva la deportazione di un numero che va dai 35.000 ai 70.000 beduini nel deserto del Naqab e che è stato ritirato dopo parecchie mobilitazioni che vanno avanti da luglio scorso. Ciao Mamun, ciao Bulos. Ciao. Provate un attimo a parlare. Scusate un attimo. Provate ora. Pronto? Ci senti? Ok, vi sentiamo. E allora, diteci, innanzitutto, cos'è il piano Prower, il piano Prower Begin, e che zone andava a colpire? Bene, buonasera a tutti. Il piano Prower Begin, cioè, diciamo, era un piano che le Knesset israeliano nel giorno del 24 giugno 2013 aveva affermato, diciamo, la prima lettura di questo progetto, che era un progetto che risale fino all'anno 2011, è stato proposto da un ministro israeliano che si chiama Ehud Barak. E questo progetto praticamente raccomandava di trasferire diciamo gli abitanti di 22 villaggi di o su 39 villaggi palestinesi nel Negev, nel deserto del Negev, e trasferirli e farli abitare o diciamo vivere nei città di concentramenti. E queste gente sono quasi 40.000 persone, e che sono quasi il 40% degli arabi palestinesi beduini che abitano in quelle zone lì. Questo progetto era, diciamo, un progetto talmente pericoloso che danneggia la vita di quelle persone lì, perché l'Europa ha quasi 700.000 ettari di terra. E questo qui, questo progetto praticamente vuol dire costringere tutti questi palestinesi, che sono quasi il 30% della totale abitazione, diciamo, nel deserto del Negev, e non soltanto 1% di quelle terre lì, di quei territori lì. E quindi costringere un numero grandioso di persone a vivere in un posto geograficamente veramente troppo piccolo. Quindi questo progetto, c'è un'altra Nakba, un'altra catastrofe come quella che è accaduta nel 48, nel caso che sarebbe andata bene con loro. Però per fortuna finora non è successo niente. Abbiamo visto che questo piano è stato ritirato dal governo dell'occupazione e ufficialmente per motivi che riguardano motivi interni alla coalizione di governo. Quanto pare l'ala destra della coalizione di governo, che ricordiamo ha come azionista di maggioranza il Likud, quindi partito storico di centrodestra dell'entità sionista, e quindi ci sono state, questa è stata la motivazione ufficiale. E secondo voi questa è stata, è vero questo motivo che hanno detto i portavoci del governo? Quando si fa di solito una lettura o un'analisi per capire come sono andate le cose, sempre c'è da ricordarsi che quando si parla di destra e sinistra in Israele si intende nel limite del sionismo, ovviamente, quindi sì, non possiamo mai considerare ricordiamo che fino governo attuale, no, un attimo, il governo attuale in Israele come un governo che c'ha dentro la coalizione una parte più destra dell'altra, sono tutti dell'estrema destra nel limite del sionismo, giusto per iniziare, capito? Cioè, per capirci meglio, nel senso che Israel Biteno insieme al Likud, che hanno fatto la coalizione, sono dell'estrema destra, Naftali Bennett col suo partito pure sono di estrema destra, però che con le dichiarazioni di Lieberman che ha messo, diciamo, il piano Bravar come un piano che dà, anzi, che dà possibilità ai beduini di vivere meglio, dicendo che è come darsi le carote alla gente, però rifiutando sempre loro che rifiutano il bastone. C'è una solamente una escalation, diciamo, per dimostrare chi è il più sionista dell'altro. Non è una cosa che fa crollare un governo in Israele, è una cosa proprio che secondo noi il motivo principale sarebbe, cioè, per questo ritiro del piano Bravar, le mobilitazioni che ci sono stati dal 15 luglio fino al 30 ottobre scorso. Questo è il motivo principale, più che altro, la mobilitazione della gente, i giovani che si organizzano e scendono in piazza, dimostrano la loro rabbia, che non accetteranno mai questo progetto e non passerà, e se è da passare, cioè, significa una intifada proprio, cioè, non può essere, cioè, sarebbe una giornata della terra nuova per quanto riguarda i palestinesi del 48. Infatti, tu parlavi appunto delle mobilitazioni. L'attenzione internazionale si è focalizzata principalmente sulla giornata della rabbia, che è stata quella grossa ondata di mobilitazioni che ha attraversato tutta la Palestina, quella mandataria dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo. Però le mobilitazioni sono state varie. Insomma, leggiamo che il 10 dicembre c'è stata a Yafa, quindi vicino Tel Aviv, una manifestazione indetta dal movimento islamico contro il piano Prawer, più ci sono state altre mobilitazioni. Se ci potete fare un po' una sintesi di cosa è successo all'interno dei palestinesi del 48 e non solo, in questi 4-5 mesi da quando è stato presentato il piano. Allora, quando è stato presentato il piano a livello legislativo per la prima volta, il 24 giugno, diciamo, i ragazzi si sono messi già da bel po' di tempo nell'organizzarsi, diciamo, a livello territoriale, diciamo, nei territori del 48, e hanno fatto la prima manifestazione, che è stata il 15 luglio. Poi la seconda manifestazione, che è stata il 1° agosto, è quella più grande, quella che è stata ultimamente il 30 ottobre, che era pure a livello palestinese, pure nella diaspora e a livello internazionale. Il 30 novembre. Sì, e quindi diciamo che non è stata né una mobilitazione soltanto dei palestinesi, tra virgolette, israeliani, come si ostina a chiamarli qualcuno, né La unicamente. scintilla è partita da lì, sì. E l'OLP non si è mosso come si deve, nel senso che non ha fatto un advocacy a livello, diciamo, delle fazioni. E quello che è stato a Ramallah o a Gaza, sono stati, diciamo, pure i giovani lì che si sono messi in contatto con i giovani nei territori occupati del 48. Sono state cose più che altro spontanee, non che cose fatte da partito, da fazioni. Infatti, leggevamo su Al Monitor, che è un giornale online che fa un po' da, come potremmo dire, da osservatore di ciò che succede in Medio Oriente, c'era un articolo in cui si parlava appunto di questo nuovo tipo di mobilitazione, che si è venuta a creare contro il piano Prawer. È più che altro un'aspirazione dalla primavera araba, c'è gli stessi metodi, diciamo, nell'organizzarsi, scendere nelle piazze, eccetera, eccetera. Si sono aspirati, diciamo, i giovani palestinesi alla primavera araba. No, ma questo articolo in particolare. No, secondo noi più che altro, scusami. Infatti, noi volevo sapere perché volevo utilizzare questo articolo un po' come spunto di discussione, in cui venivano intervistati i vari palestinesi dei territori del 48, che per chi ci ascolta e non lo sa, sono quei palestinesi che non sono stati. Che non sono stati cacciati dalla Palestina nel 1948. E che quindi ricadono sotto la sono cittadini di terza classe del cosiddetta Israele. E insomma, c'erano interviste sia un avvocato sia un parlamentare, un tale Dvaik, insomma, a vari esponenti che dicevano che che una nuova intifada non potrebbe accadere, non potrebbe nascere per due ordini di motivi. Il primo è che in caso di scoppio di una vera mobilitazione trasversale sia nei territori del 48 che in quelli occupati nel 67, riuscirebbero le varie differenze di fazione che ci sono state fino ad oggi e che però sono sopite quando manca la mobilitazione grossa. Il secondo è che questa vertenza è legata unicamente al piano Prauer-Begin e quindi quando si sgonfierà questa, si sgonfierà anche la mobilitazione. Secondo voi è credibile questa cosa o no? E soprattutto, se ora che il piano Prauer è stato ritirato, per i palestinesi che abitano i territori del 48 c'è pericolo ancora di perdere la propria terra o meno? Come risposta sì, come no. C'è un ministero in Israele che si chiama il Ministero dello Sviluppo del Nakab e della Galilea, che sarebbe, diciamo, il braccio del movimento sionista, nel quale lo utilizza, diciamo, per non sviluppare ma israelizzare questi territori, siccome a livello demografico i palestinesi che sono rimasti dentro i territori del 48 o che abitano in Galilea o che abitano nel Nakab. Quindi l'idea è sempre di metterli in un pezzo di terra sempre più piccolo, col numero più grande, cioè una densità popolare più alta. Cioè, se si può aggiungere qualcosa pure, cioè, questo piano per l'Israele, per diciamo, lo Stato dell'Israele, cioè un piano strategico, secondo me forse è stato rimandato più che cancellato al 100%, questa rimane sempre nella politica, diciamo, una possibilità, una probabilità, va calcolata e va considerata. E quindi non soltanto, cioè, adesso si può aspettare, perché un progetto del genere che serve diciamo scopi statali israeliani strategici, c'è qualcosa che è un po' che non vada bene, così molto bene, che loro hanno mollato così semplicemente, nonostante queste mobilitazioni che c'erano dentro la Palestina del 48, anche fuori, erano sì attive, erano numerose, però non erano come deve essere. E comunque l'Israele si è fermato, ha visto adesso di fermare tutto quanto. Ancora c'è da aspettare, da vedere i prossimi giorni cosa si scrive, cosa si dice, sia delle parti dei palestinesi che quella degli israeliani. Oltretutto da aggiungere che praticamente il governo israeliano, a cui partecipa pure Avigdor Lieberman, nel partito Israel Beiteno, che è un partito unico con Likud oramai, non ha smesso mai di ribadire la sua volontà, diciamo, di fare un transfer per tutti i palestinesi del 48 come parte del programma del partito stesso, oltretutto. Sì, d'altronde ricordiamo che questo del trasferimento, della deportazione, non solo dei palestinesi del 48, ma anche quelli che stanno nei territori del 67, è un po' un leitmotiv che c'è un po' da sempre nella politica israeliana. Ricordiamo un po' il ministro Zevi, che era ministro del turismo fino al 2001, poi non è più riuscito a essere ministro per dei motivi, che ce l'aveva anche lui nel programma di governo e la portava avanti questa faccenda. Ma invece l'aspetto repressivo, abbiamo visto ci sono state queste grandi manifestazioni in tutta la Palestina storica e non solo, ma dentro la Palestina storica abbiamo letto che ci sono state cariche che, insomma, l'unico stato democratico del Medio Oriente, come viene chiamato, ha caricato le manifestazioni, soprattutto quella ad Haifa e quella nel Nakab. Ci potete fare un bilancio approssimativo della repressione contro gli attivisti? Più che altro la reazione diciamo delle forze d'ordine dell'occupante sono stati proprio normali, nel senso che fanno sempre così. Il loro modo di rispondere, diciamo, a certe manifestazioni pure pacifiche, se vogliamo dire. Gli arresti erano più di una sessantina, con pure gente con minorenni pure, ci sono messi a disposizione. C'è un video c'è un video che fa vedere nel Naqab un bambino di 12 anni che viene portato via con un parlamentare che si mette in mezzo, ma che poi viene portato via su una jeep. Sì, sì. Quindi come reazione era proprio dovuta, diciamo, a che il governo israeliano non ha aspettato una mobilitazione tale che potrebbe, diciamo, portare così tanta massa, tanti numeri in strada, diciamo, per protestare. Quindi sono stati un po' sconvolti, diciamo. Per quello il loro atteggiamento era troppo offensivo. Quindi arresti, hanno picchiato la gente, i manifestanti, erano... E così, insomma. Va bene, noi ci prendiamo 5 minuti di pausa, ci sentiamo una canzone. Oggi la playlist viene inviata direttamente dai nostri corrispondenti e ci sentiamo El Taura di Mash. E siamo di nuovo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata, e siamo qua con Mamoun Nebulos, due compagni palestinesi che stavano parlando delle mobilitazioni in corso in questo periodo contro il piano Brower. E quindi ci si apre la discussione sui palestinesi del 48, perché molti scoprono, anche molti attivisti o distratti o magari non troppo distratti, molto coscienti, non parlano di ciò che avviene dentro l'entità sionista, la cosiddetta Israele, dove c'è circa un 20% di abitanti che è palestinese. E Bulos prima citava la giornata della terra. Bulos, ci puoi spiegare cos'è questa giornata della terra, che molti attivisti italiani spesso la vivono come una scadenza annuale in cui andare sotto l'ambasciata con le bandiere palestinesi, ma spesso non sanno di cosa si parla, da cosa è nata e cosa significa. Allora, la giornata della terra è come... giorno rappresenta, diciamo, la mossa che è stata fatta dai palestinesi del 48 contro un altro progetto della confisca di altri terreni, ma questa volta si parla di terreni, diciamo, nella Galilea, specificamente in tre paesi che si chiamano Der Hanna, Arrabi e Sakhnin, che era un triangolo, diciamo, della giornata della terra. L'idea era di confiscare, diciamo, la metà di quello che vogliono confiscare oggi, diciamo, nel Naqab, sono i terreni, diciamo, coltivati, olive, eccetera, eccetera. Allora, a livello, diciamo, strutturale, i palestinesi del 48 all'epoca non avevano una rappresentanza, diciamo, politica ovvia, oppure, diciamo, una leadership o partiti. C'era sempre il partito comunista che non rappresentava, diciamo, tutti i settori della società palestinese dentro Israele, però da quel giorno si era creata, diciamo, questa commissione che si occupava, diciamo, della terra in Palestina, da cui è nata poi nato il direttivo alto, diciamo, o il consiglio alto di palestinesi del 48, e questa è stata una risposta, diciamo, a quel progetto in cui il 30 marzo 76 la gente ha fatto una grande manifestazione che sono stati, diciamo, ripresi dallo Stato di Israele con martiri e feriti. Ecco, e la storia si ripete con i tentativi di far passare il piano Brawer Begin che l'hanno reiterato oggi. Ecco, in breve, diciamo. Beh, sei stato chiarissimo. E quindi appunto palestinesi del 48, dei territori del 48, che si ritrovano a vivere di fatto anche loro sotto occupazione, seppure nell'invisibilità della maggior parte dei media internazionali, perché in genere quando si parla di territori occupati si pensa subito alla West Bank o a Gaza, insomma quei territori occupati nel 1967. Però insomma si potrebbe quasi dire che l'occupazione maggiore la vivano loro in quanto palestinesi dentro uno stato che è ebraico, che si vorrebbe definire ebraico. Secondo voi è conciliabile la frase che molti politici occidentali dicono, che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente? È conciliabile con il fatto che si connota come uno stato ebraico? E tu, Boulos, che sei proprio un palestinese del 48, cosa significa vivere in uno stato ebraico da non ebreo? Vuol dire che sei nessuno per lo Stato, che tu c'hai i cosiddetti diritti civili, che potresti votare, potresti avere i diritti, diciamo, civili normali, però non c'hai i diritti nazionali, nel senso lo Stato si autodefinisce come Stato per gli ebrei, quindi esclude tutte quelle che non sono ebrei. Già parlando a livello legislativo una cosa, però siccome lo stesso Stato si autodefinisce uno Stato per gli ebrei, esclude, diciamo, tutti quelli che non sono ebrei, quindi non deve essere una legge quella che ti dice fai questo, fai quello per i cittadini non ebrei, perché lo Stato si definisce così, nel senso il diritto al ritorno per gli ebrei è chiaro, il diritto al ritorno dello Stato di Israele garantisce a tutti gli ebrei ovunque siano nel mondo, nella definizione dell'ebreo, che è quello che è nato da una madre ebrea, poi si è sviluppata, diciamo, questa definizione. Pronto? Praticamente non è un Stato democratico per tutti i suoi cittadini, è una democrazia nel limite del sionismo. Non possiamo negare il fatto che ci sono delle elezioni quando devono essere le elezioni, non che non c'è, diciamo, una vera, c'è la democrazia però nel limite del sionismo, una democrazia per gli stessi sionisti, che esclude praticamente quelli che non fanno parte della definizione dello Stato, cioè gli arabi. Non abbiamo i diritti nazionali nostri, non abbiamo il diritto al ritorno, cioè se fosse per tutti i profughi tornerebbero, capito? Però lo garantiscono solamente agli ebrei. Quindi uno Stato che a livello legislativo ha queste leggi, diciamo, sono atti da parte chiari nei confronti dei palestinesi, sia del 48 sia dei profughi del 48, non parlando di quelli del 67 ovviamente. Sì, d'altronde però mi sembra che negli ultimi anni la situazione sia andata anche a peggiorare. Mi ricordo che l'estate scorsa c'era una proposta di legge inoltrata dal ministro che tu hai citato prima, Lieberman, che forse è uno degli aspetti anche più beceri del sionismo, si può far equivalere in Italia a un'organizzazione fascista o simile alla Lega Nord, che aveva imposto il giuramento per tutti i cittadini non ebrei, il giuramento all'ebraicità dello Stato di Israele. E oltre a questo non ci sono solo i palestinesi del 48, ma anche tutti i vari immigrati prevalentemente dall'Africa, che stanno subendo delle misure persecutorie abbastanza importanti. In questa settimana hanno fatto una nuova legge per aprire dei carceri simili ai nostri centri di identificazione e via dicendo. Per i parlamentari del Knesset israeliano, diciamo, è diventato oramai uno sport giornaliero, diciamo, fare delle proposte razziste contro i palestinesi nel 48, chi fa delle proposte ancora più razziste dell'altro ancora viene ben accolto dalla società. Una cosa che veramente ci mostra solamente segni negativi per come stanno andando le cose dentro la stessa società israeliana. Il vostro, il loro, diciamo, una via proprio che va verso l'estremità del fascismo, del sionismo, cioè andare sempre oltre e oltre nel fare le cose proprio a livello legislativo è ancora non so come descriverle queste cose, sinceramente. Sì, dall'altra parte però i filosionisti dicono che però ai palestinesi è consentita la rappresentanza parlamentare, che ci sono, mi pare, 4 o 3 seggi garantiti solo per la comunità palestinese, senza dire poi però che magari, ad esempio, la parlamentare Hanin Zoabi è stata più volte incriminata per una parlamentare palestinese nella Knesset, è stata più volte incriminata per aver partecipato alla Freedom Flottiglia, o magari a altri parlamentari che durante sedute del Parlamento vedono tirarsi in faccia bicchieri d'acqua. E voi come vedete questa partecipazione palestinese all'Assemblea legislativa sionista? Intendi dentro il Knesset? Ci sì, sono sì. Dei punti di vista pure a livello palestinese, che alla fine, essendo sotto occupazione, tu c'hai il tuo progetto politico, è ovvio, le tue, diciamo, aspettative, pure c'hai i tuoi partiti, lavori nei terreni, però pure dovresti essere presente a livello sociale, quindi dovresti pure far parte, secondo certe voci, pure nel Knesset israeliano, per poter fare delle cose pure non a livello, diciamo, collettivo palestinese, ma almeno giusto per dare qualche spinta, diciamo, per quelli che sono rimasti, provando di bloccare certe leggi oppure di fare certe proposte che pure fanno bene a quelle che sono rimaste, alla società palestinese del 48. E ci sono altri che dicono che nel Knesset è da boicottare, cose che loro non accettano. Quindi ci sono vari punti di vista. Come la vediamo noi, c'è praticamente il sistema come è fatto in Israele, permette a quelli che governano di avere sì la maggioranza pure nel Knesset. Il primo ministero Netanyahu fa parte del partito delle Kurd, c'è la maggioranza nel Knesset, però una volta in Israele per tre, diciamo, volte non, che votavi il presidente del consiglio direttamente, però siccome vota il partito con la maggioranza, quello che governa, fa la coalizione, fanno quello che gli pare, il Knesset diventa praticamente un teatro in cui la gente fa certe scene, capito? Certe speech e basta. Quindi non penso che gli stessi parlamentari palestinesi possano fare delle grandi cose a livello collettivo palestinese. Cioè, alla fine non potranno mai far parte, e non lo possono fare, di qualsiasi governo israeliano, saranno sempre nella opposizione, quindi essere un oppositore dentro il Knesset israeliano vuol dire solamente parlare e basta. Spesso anche schivare le pizze, perché qualche volta gli hanno anche provato a menare. Sì, sì. Sì. Ah, ok, no, era andato un attimo via la voce. E quindi io vorrei chiudere, se non avete altro, vorrei chiudere con una riflessione. Praticamente abbiamo visto i palestinesi del 48 inalberarsi, manifestare insieme ai loro fratelli nella diaspora e nei confini del 67. Però nello stesso momento il presidente palestinese, o meglio dell'autorità palestinese, annuncia che di essere ritornato ai colloqui di pace di cosiddetta pace con Netanyahu e di cercare di costruire tramite i negoziati uno Stato palestinese indipendente sui confini del 67 e via dicendo. Quindi continua a sostenere la soluzione dei due popoli e due Stati. Secondo voi quanto ha ancora valore questa ipotesi e voi quanto palestinesi del 48 quanto vi sentite rappresentati dall'autorità palestinese? Non ci sentiamo rappresentati per niente praticamente, perché questo presidente, cosiddetto presidente palestinese, non rappresenta nessun palestinese che non viva a Ramallah, anzi che lavora dentro così detta in arabo il Muqata, cioè il headquarter dell'autorità palestinese. Una persona come questo, che rappresenta diciamo l'organizzazione palestinese più grande in assoluto, che rappresenta tutti i palestinesi sia che vivono dentro la Palestina che fuori, e l'anno scorso esce in pubblico e dice: io, cioè Astafad, la sua città di origine, non ci voglio tornare, non appartengo più a quella città, cioè ha mollato il suo diritto di ritorno. Come puoi fare ad affidarti come un palestinese che vive in diaspora o vive in un campo di profughi dentro la Palestina o ancora stai sotto l'occupazione israeliana nel 48? Come puoi fidarti di una persona del genere? Cioè, una persona che non vuole tornare più nel suo paese, cioè non vuole tornare più alle sue origini, cioè ha abbandonato la sua terra. In altre parole, l'Israele prima, cioè nella fase preparatoria diciamo del costruire il loro stato, c'era questo slogan nello scorso secolo molto famoso: un popolo senza terra era una terra senza popolo. Cioè questo presidente, cosiddetto presidente, partecipa in qualche maniera, non lo so se lui è consapevole o meno di questa mossa sua, che sta partecipando praticamente attivamente diciamo il piano sionista nell'occupare la Palestina, e quello che vogliono gli israeliani o sionisti è quello che facevano da sempre, dal 48 fino ad oggi, cioè cacciare via la gente dalla loro terra. E viene poi una persona, non è una qualsiasi persona, ma una persona responsabile, sta proprio diciamo nella cima del piramide politico palestinese, e dice: io non ci voglio tornare. E quindi per noi quello che dice questo uomo non ci rappresenta per niente, rappresenta soltanto i palestinesi opportunisti che lavorano insieme a lui, rappresenta i loro interessi politici, economici, solo quello. Noi, appunto, come dicevamo prima, anche il piano Pravar, secondo noi, in qualche maniera, diciamo, un passo avanti ancora su quel slogan: c'è un popolo senza terra per una terra senza popolo. Secondo loro, il popolo, la maggioranza di quel popolo, l'hanno cacciato via dalla Palestina. Oggi c'è il tempo di lavorare più e più sulla terra. E quello cosa vuol dire tutte queste storie e il problema degli insediamenti israeliani illegali dappertutto sui territori della Palestina occupata nel 67? E quello cosa vuol dire oggi il piano Pravar, diciamo, nel deserto del Naqab? E quello cosa vuol dire pure, diciamo, il progetto che era qualche anno fa, quello che è chiamato, diciamo, il progetto dello sviluppo dell'Alta Galilea? Cioè, praticamente sono dei progetti di una pulizia etnica del popolo palestinese nel loro, diciamo, sulla sua terra, e continuerà questo progetto. Perciò l'autorità palestinese, l'OLP più grande ancora, non hanno fatto nulla. L'unico modo che è questa lotta di questi giovani che sono attenti, capiscono bene cosa sta succedendo, capiscono bene dove le porterà questa via, perciò non si permettano ad arrendersi. E quindi per noi né Abu Mazen né il più grande di Abu Mazen decide, diciamo, per il nostro destino e decide per il nostro futuro. Abbiamo visto negli ultimi 3 anni cosa hanno fatto i giovani nel mondo arabo. Durante tutte quelle rivoluzioni hanno deciso loro il loro futuro, la loro vita, il loro destino, e quindi a noi non ci appartiene quello che fa Abu Mazen. Sei stato chiarissimo, Mamun. E un'ultima proprio domanda al volo. Si è parlato dei colloqui di riconciliazione tra Hamas e Fatah. che vanno avanti a singhiozzo. Ogni tanto, quando è più forte Hamas, lancia la palla per la riconciliazione, quando poi è più forte Fatah, è lei che lancia la palla, ma pare che non si ascoltino. Uno dei motivi, uno dei punti su cui verteva la riconciliazione era una riforma dell'OLP che potesse includere anche gli altri, i due grandi movimenti palestinesi che non ne fanno parte, cioè Hamas, il movimento per il Jihad Islamico in Palestina. Secondo voi, quale può essere il ruolo dell'OLP in una futura ripresa, delle mobilitazioni del popolo palestinese? Allora, da noi si dice un minorenne non può mettere incinta una vecchietta. Ok? Cioè, l'OLP oggi una vecchietta e questi sono minorenne politicamente, in questo senso. Ok? Ci vuole una riforma? Certo che ci vuole una riforma, però non è da parte di gente che credono oggi che i partiti politici e i loro partiti sono più grandi della patria. E quando si arriva a questo punto, nessun fallito. Nessuna persona fallita come questi, cioè, possa fare un cambiamento o possa pretendere di fare un cambiamento, perché per loro gli interessi sempre sono i partiti. Tutte queste litigate fra Hamas, fra il Fatah, dal 2006 fino ad oggi, dal 2004 fino ad oggi, non era o non è stata mai, diciamo, per gli interessi dei palestinesi, mai. Sempre sono stato per chi è il partito più grande e chi è il partito più forte. Okay? E quindi vedremo tantissimi incontri fra di loro a Cairo, come è successo già, e si incontreranno, alla fine esce qualcuno e dice o Hamas o Fatah, e non vogliono, e hanno mandato, cioè, diciamo, scusatemi il termine, a puttana tutti questi incontri, perciò non si arriverà mai ad un accordo fra di loro. E neanche c'è, cioè, un interesse né di Hamas né del Fatah di riformare l'OLP. Perché sanno benissimo, una volta riformata e messa proprio sulla sua strada di una volta, non ci sarà un posto né per nessuno di loro due. Perché? Perché oggi ci sono delle nuove forze che ancora non hanno avuto la loro possibilità, non hanno avuto il chance di lavorare, di fare, di offrire, di dare, diciamo, al popolo palestinese uno scopo nuovo della vita, diciamo, una via nuova di lotta. Perciò non ci crediamo che ci sarà, crediamo che non ci sarà nulla di positivo di questi incontri, neanche di questa riforma, perché secondo noi non ci sarà questa riforma comunque. I giorni ci saranno e vedremo poi nel tempo se è vero o meno. Grazie mille, grazie Mamun e grazie a Bulos. Ci potete lasciare qualche contatto? Voi fate parte del movimento dei giovani palestinesi. Ci volete lasciare qualche recapito informatico tramite cui i nostri ascoltatori poi possono andare per avere notizie su di voi? Assolutamente, noi abbiamo un po' di pagine su Facebook, una si chiama I Giovani Palestinesi in Italia e poi c'è quella dell'UDAB, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese. E quindi su queste pagine noi pubblichiamo quello che pensiamo, pubblichiamo sulle nostre iniziative e abbiamo questi due riferimenti. Grazie mille. Grazie a voi. Io ora vi chiedo di rimanere un attimo in privato. Intanto noi sentiamo una cooperazione musicale islandese-siriana con Björk e Omar Suleiman che fanno un remix di Crystalline. Thank you. جدك جدك تلقاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها Siamo di nuovo in onda su Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata, sulla Palestina occupata e con la Palestina occupata. Abbiamo appena sentito i compagni palestinesi che ci parlavano delle mobilitazioni sul piano Brouwer e ora andiamo con il nostro consueto giornale radio. Thank you. E il Fronte Popolare piange la morte di Nelson Mandela. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha espresso le sue condoglianze per la morte di Nelson Mandela, simbolo della lotta nazionale sudafricana contro il regime di apartheid e amico di movimenti di liberazione di tutto il mondo. L'FPLP considera la sua dipartita come una grande perdita per la lotta del popolo palestinese, in quanto parte della lotta di tutti i popoli del mondo per la libertà e la giustizia. Il fronte ha inoltre confermato la solidarietà internazionale e gli storici legami d'amicizia tra il popolo palestinese e quello sudafricano, forgiati nella lotta contro l'occupazione, il razzismo, l'imperialismo e il sionismo, e nella lotta per la libertà, la giustizia sociale e il progresso sociale. E passiamo ad Al-Quds, o meglio conosciuta come Gerusalemme, dove l'esercito cerca un prigioniero politico. Scontri ad Al-Issawiya. Lunedì 9 dicembre le forze d'occupazione hanno invaso Al-Issawiya, vicino a Gerusalemme, per fare irruzione a casa del detenuto politico Samir Issawi. I militari hanno dichiarato al padre di essere alla ricerca dei suoi figli, Samir e Midat, sebbene siano prigionieri nelle carceri sioniste, ed hanno consegnato a un altro figlio, Firas, il mandato di comparizione con l'ordine di presentarsi alla centrale di sicurezza per un interrogatorio. All'invasione la cittadinanza ha reagito con lanci di pietre e bottiglie, a cui i militari hanno risposto sparando bombe sonore e pallottole di gomma. Samir Issawi è divenuto noto nelle cronache mondiali grazie alla sua battaglia per la dignità, che lo ha portato a condurre uno sciopero della fame di 9 mesi per protestare contro l'arbitrarietà della sua detenzione. Dovrebbe essere rilasciato il prossimo 23 dicembre. E West Bank, l'occupazione assolve i colpevoli dell'omicidio di Mustafa Tamimi. Il 6 dicembre i tribunali militari dell'occupazione hanno assolto il soldato che nel 2011 si è reso colpevole dell'omicidio di un manifestante palestinese. Mustafa Tamimi, 28 anni, venne colpito in faccia da un candelotto di gas lacrimogeno, sparato durante una manifestazione nella West Bank occupata, dallo sportello semisocchiuso nel retro di una jeep in corsa. Per le autorità dell'occupazione la colpa è stata di Tamimi, che si è posto in una situazione di pericolo rincorrendo il veicolo militare. Gli amici e i compagni di Mustafa hanno denunciato invece il mancato interrogatorio dei testi palestinesi durante l'inchiesta giudiziaria. E Ramallah, bambino ucciso dall'esercito sionista. Domenica scorsa un ragazzino palestinese è stato ucciso dalle forze d'occupazione mentre giocava vicino al campo profughi di Al-Jalazun, a nord della città di Ramallah. Il ragazzino, Wajdi Mustafa Ramahi, di 14 anni, ha subito dei colpi d'arma da fuoco alle spalle mentre stava giocando con i suoi amici vicino a una strada che collega la colonia illegale di Betel a una base militare. Il padre e numerosi testimoni oculari hanno smentito la versione delle forze d'occupazione che accusavano il giovane, morto poco dopo il ricovero, di aver lanciato pietre durante gli scontri. E Betlemme, due ragazze investite da un colono. Martedì due gemelle di 17 anni sono state ricoverate dopo che un colono le ha investite a Beit Jalal, vicino alla striscia di Betlemme, vicino alla città di Betlemme. Il fatto è l'ultimo di una lunga serie, 8 in meno di 3 mesi, di tentati omicidi da parte dei coloni o delle truppe d'occupazione in cui si tenta di investire i palestinesi. E passiamo alla striscia di Gaza, dove il Fronte Popolare celebra il suo 46° anniversario. La settimana scorsa il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha commemorato il 46° della sua fondazione con una manifestazione nello stadio di Al-Katiba, nella striscia di Gaza, che secondo l'organizzazione sarà solo la principale di varie iniziative che si terranno in tutta la Palestina e all'estero. Durante il raduno, intitolato La nostra scelta, unità, resistenza, liberazione, il fronte ha confermato il sostegno alla resistenza in tutte le sue forme e ha attaccato i colloqui intrattenuti dall'ANP con i diplomatici dell'entità sionista, dicendo che la soluzione dei due stati è in contrasto con la costruzione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale ed il ritorno dei profughi. Passiamo agli aggiornamenti all'entità sionista, alla Galilea specialmente, dove sono stati trovati slogan razzisti sulle case dei palestinesi. All'alba di martedì, gli abitanti del villaggio di Akbara, vicino Safad, nel nord della Palestina occupata, hanno trovato le proprie abitazioni vandalizzate con slogan razzisti contro l'assimilazione e per la cacciata degli abitanti arabi della cosiddetta Israele. La polizia ha scoperto anche che i razzisti sionisti hanno bucato le gomme di oltre 10 automobili. Questo attentato viene dopo che domenica scorsa è stata vandalizzata la moschea di Baqa al-Gharbia. Sebbene la maggior parte dei palestinesi sia stata espulsa dalle proprie case nel 48, una minoranza è riuscita a restare ed i loro discendenti oggi sono circa il 20% della popolazione dell'entità sionista. E approvata la legge contro l'immigrazione. La Knesset, l'organo legislativo sionista, martedì ha emanato una legge che permette la carcerazione degli immigrati clandestini africani per un anno senza processo. Questa nuova legge, simile a quella italiana sulla clandestinità, è stata approvata durante una seduta notturna in cui erano presenti meno della metà dei parlamentari ed è l'ultima di una lunga serie di misure discriminatorie contro gli africani immigrati nella Palestina occupata, in quanto mettono a rischio il carattere ebraico dell'entità sionista. Alla nuova legge sono precedute una serie di misure repressive che hanno portato nel solo 2013 all'arresto e alla deportazione di quasi 4.000 immigrati, alla costruzione di una barriera al confine con l'Egitto e alla costruzione di campi di concentramento in grado di contenere 11.000 persone. E la teoria della razza entra nel sistema sanitario sionista. Mercoledì Pnina Tamano Shata, la prima ebrea etiope a sedere nella Knesset, ha dichiarato che il sistema sanitario ha rifiutato una sua donazione di sangue. Secondo il quotidiano Inet, lo staff della banca del sangue ha dichiarato che il suo è un tipo di speciale di sangue ebraico etiope e che quindi non sarà congelato insieme alle altre sacche. Gli ebrei etiopi hanno sempre subito delle discriminazioni sin dal loro arrivo nella Palestina occupata ed alcune ali dell'ebraismo mettono in forza il loro status di ebrei. Ciò si somma con le misure discriminatorie che stanno venendo approvate contro gli africani all'interno dell'entità sionista, colpevoli, secondo il governo, di minacciare il carattere ebraico dello Stato. E passiamo al fronte delle carceri, dove i prigionieri in detenzione amministrativa entrano in sciopero della fame. I palestinesi in detenzione amministrativa oggi saranno in sciopero della fame per protestare contro la loro prigionia. La detenzione amministrativa è un mostro giuridico risalente al mandato britannico che permette ai tribunali dell'occupazione di carcerare i palestinesi per periodi di 6 mesi, rinnovabili in maniera indefinita, con l'accusa di porre un pericolo allo Stato ma senza richiedere prove. Attualmente più di 300 palestinesi sono detenuti senza accuse sulla base di questo istituto giuridico. E passiamo agli esteri. Italia, attivisti in decine di piazze per dire no a SodaStream. Sabato 7 dicembre, in numerose città italiane, i solidali con il popolo palestinese hanno svolto delle azioni di sostegno alla campagna di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni, e specialmente contro l'azienda SodaStream. A Pisa, Milano, Follonica, Roma, dove un negoziante ha anche rimosso gli apparecchi in vendita dal proprio negozio, e in tante altre città è stata posta l'attenzione sull'azienda che, oltre ad avere i propri impianti industriali nella colonia della West Bank occupata, porta avanti delle politiche antisindacali nei confronti dei propri lavoratori. E passiamo alla Germania, dove è pronta la vendita di due cacciatorpediniere. Il quotidiano tedesco Bild ha annunciato che la Germania venderà all'entità azionista due cacciatorpediniere per poco più di $1 miliardo. I vascelli da guerra saranno utilizzati per sorvegliare i gasdotti sionisti. Passiamo alla Romania, dove il governo vieta ai suoi cittadini di lavorare nelle colonie. È scoppiata una lite diplomatica tra il governo sionista e quello romeno dopo che quest'ultimo ha vincolato l'invio di manodopera edile al divieto di utilizzarla nelle colonie e della West Bank, illegali secondo il diritto internazionale. I colloqui di Bucarest con Bucarest sull'importazione di manodopera romena si erano interrotti nel 2012, ma erano stati riavviati nel maggio scorso dopo il cambio del governo. Secondo il governo romeno, il divieto di far lavorare i propri cittadini nelle colonie è legato alle nuove linee guida dell'Unione Europea, che vietano il finanziamento di qualsiasi ente o entità che opera in quelli che, secondo il diritto internazionale, sono i territori occupati. Passiamo all'Olanda, dove la Bitens, l'azienda idrica, rompe la collaborazione con la Mecorot. L'azienda olandese Bitens, che si occupa della fornitura idrica, ha dichiarato di aver interrotto la partnership con la sua omologa sionista, la Mecorot, perché le loro attività sono, aperte virgolette, non possono essere estrapolate dal contesto politico della regione. Secondo i media olandesi, la Mecorot fornisce acqua alle città sioniste e alle colonie, negandone l'accesso ai nativi palestinesi. La rottura viene in seguito alla visita in West Bank da parte del ministro olandese del commercio, che ha portato anche a un piccolo incidente diplomatico a causa del rifiuto sionista di inaugurare uno scanner per container regalato dai Paesi Bassi per permettere un maggiore passaggio di merci dal valico di Kerem Shalom alla striscia di Gaza. La Mecorot ha recentemente avviato un accordo di partnership con una delle sue omologhe in Italia, l'ACEA. E passiamo alle iniziative. Il 13 dicembre riprendono le proiezioni del ciclo Palestina per principianti. La rete romana di solidarietà con il popolo palestinese ricomincia la seconda edizione della rassegna cinematografica Palestina per principianti presso il cinema De Tour a Via Urbana 107 a Roma. Il primo film sarà Sale di questo mare di Anne-Marie Jassir, che inizierà venerdì 13 alle ore 21 e sarà preceduto alle 20:30 da un aperitivo palestinese. Andiamo con l'ultima iniziativa, 14 dicembre, anche un bel anniversario, proiezione in ricordo di Nelson Mandela a Cagliari. In ricordo di Nelson Mandela, amico del popolo palestinese recentemente scomparso, l'associazione Amicizia Sardegna-Palestina organizza la proiezione del pluripremiato documentario Roadmap to Apartheid di Anna Nogueira ed Aaron Davidson presso l'Hostel Marina, Scalette San Sepolcro, a Cagliari, alle ore 17. Per oggi si conclude questa puntata di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata. Ricordiamo, la settimana prossima torneremo con il nostro consueto GR noi vogliamo ricordare subito i contatti della radio, www.radiodefault.it, i suoi contatti Skype, radio.default e Facebook, Radio Default, con cui potete intervenire in diretta, fare interventi, mandare imprecazioni, suggerimenti o semplici domande. Ovviamente ricordiamo che stasera si va in onda con le proiezioni del ciclo Anime, quindi venite qua in radio a via Guido Baldi 56 a Genzano. E chiudiamo ricordando che la trasmissione è curata dall'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha un blog, castelliperlapalestina.noblogs.org, in cui potete trovare le repliche delle nostre puntate insieme ad altre traduzioni di articoli di analisi sulla Palestina e dalla Palestina. Quindi noi vi salutiamo, sono le 20 e 35 minuti primi, vi salutiamo con un buona libertà a tutti e a tutti in Palestina, come ai Castelli Romani, come in ogni luogo. E un abbraccio a Adriano e Gianluca. بتسعى في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار